50 domande su Gesù. Cosa sono i manoscritti di Qumran? Nell'anno 1947, nel Wadi Qumran, vicino al Mar Morto, furono rinvenuti in alcune grotte, 11 in totale, delle giare che contenevano un gran numero di documenti scritti in ebraico, aramaico e greco. Si sa che furono redatti tra il II secolo a.C. e l'anno 70 d.C., in cui ebbe luogo la distruzione di Gerusalemme. Oltre ai pochi che si sono conservati in modo integro, ne sono stati ricomposti circa altri 800 dalle varie migliaia di frammenti ritrovati. Ci sono parti di tutti i libri dell'Antico Testamento, eccetto Ester, di molti libri giudaici non canonici già conosciuti e anche di altri fino allora sconosciuti, e sono apparsi anche scritti originali del gruppo di Esseni che si era ritirato nel deserto. I documenti più importanti sono senza dubbio i testi della Bibbia. Fino alla scoperta dei testi di Qumran, i manoscritti in ebraico più antichi che possediamo erano dei secoli fra il IX e il X d.C., per cui si poteva sospettare che si fossero operati tagli, aggiunte o modificate parole o frasi scomode degli originali. Con le nuove scoperte si è verificato che i testi trovati coincidono con i medievali, sebbene siano precedenti di quasi 1000 anni, e che le poche varianti che presentano coincidono in gran parte con alcune già testimoniate dalla versione greca chiamata dei 70 e dal Pentateuco samaritano. Altri documenti hanno contribuito a dimostrare che c'era un modo di interpretare la scrittura e le norme legali differenti da quanto facevano i sadducei o i farisei. Nei ritrovamenti di Qumran non c'è nessun testo del Nuovo Testamento né alcuno scritto cristiano. Alcuni anni fa è stato oggetto di discussione tra gli studiosi se alcune parole scritte in greco su due piccoli frammenti di papiro trovati lì potevano appartenere al Nuovo Testamento, in particolare al Vangelo di Marco. Ma la maggioranza degli esegeti si è espressa in modo negativo su questo possibile collegamento. Al di fuori di questo caso controverso, in quelle grotte non furono rinvenuti reperti attribuibili a nessuna possibile fonte cristiana, canonica o gnostica. Non sembra nemmeno che si possano attribuire influenze degli scritti rinvenuti a Qumran sull'insieme dei libri che compongono il Nuovo Testamento. Oggi gli specialisti sono d'accordo che questo gruppo non influì per nulla sulle origini del cristianesimo, giacché era esclusivista, minoritario e appartato dalla società, mentre Gesù e i primi cristiani vissero immersi nella società del loro tempo, giudaica ed ellenistica, e dialogarono con i loro contemporanei. Questi documenti sono serviti soprattutto per chiarire alcuni termini o espressioni abituali in quell'epoca. Nella prima metà degli anni 90 del XX secolo si diffusero due miti che con il tempo si sono completamente dissolti. Uno, che i manoscritti contenevano dottrine che contraddicevano il giudaismo e il cristianesimo e che di conseguenza il Gran Rabbinato e il Vaticano si sarebbero messi d'accordo per impedirne la pubblicazione. Ora che sono stati pubblicati tutti i documenti, è apparsa evidente la falsità di quelle notizie e si è preso atto che le difficoltà di pubblicazione non erano frutto dell'ennesimo complotto del Vaticano, ma di ordine tecnico e organizzativo. Il secondo è più sottile, con un'apparenza scientifica. Una professoressa di Sydney, Barbara Thiering, e un altro della State University di California, Robert Eisenman, hanno sostenuto in vari libri che confrontando i documenti qumranici con il Nuovo Testamento si arriva alla conclusione che entrambi furono scritti in codice e che non dicono quello che appare, ma che bisogna scoprirne il significato segreto. Azzardarono l'ipotesi che il maestro di giustizia, fondatore del gruppo di Qumran, sia stato Giovanni Battista e il suo oppositore Gesù, secondo Barbara Thiering, o che il maestro di giustizia sia stato Giacomo e il suo oppositore Paolo. Fondarono le loro tesi sul fatto che nei documenti originali della setta che abitò Qumran e li depositò nelle grotte in cui furono rinvenuti, vengono designati personaggi con termini il cui significato ci sfugge, come il maestro di giustizia, il sacerdote empio, il bugiardo, il leone furioso, i cercatori di interpretazioni facili, i figli della luce e i figli delle tenebre, la casa dell'abominazione, eccetera. Attualmente nessuno specialista condivide tali affermazioni. Se non conosciamo il significato di questa terminologia, non è perché contenga dottrine esoteriche, ma perché ci mancano informazioni. È evidente che i contemporanei dei Qumraniti erano familiarizzati con queste espressioni e che i documenti del Mar Morto, sebbene contengano dottrine e norme differenti da quelle osservate dal giudaismo ufficiale, non hanno nessun codice segreto né nascondono teorie inconfessabili. Nel loro insieme, i manoscritti di Qumran sono una fonte inestimabile di dati sull'ambiente religioso e sociale del primo secolo d.C., così variegato, in cui nacque il cristianesimo.